RadioTube Social Network. Rieccoci insieme dopo il giornale radio delle 17 con la seconda ora di RadioTube, l'ora di RadioTube Social Network, quella in cui parliamo dell'attualità della settimana, della rete e dalla rete. Nella prima ora abbiamo parlato molto di musica perché abbiamo incontrato Leo Gassman, super carino, super educato. Infatti il suo ultimo singolo si intitola Maleducato, ma è un inno agli educati. Mi piace questa rivoluzione degli educati, delle brave persone, delle persone gentili. Io sono molto favorevole. Abbiamo parlato di serie TV con Diego Castelli e anche così un po' spinti dall'uscita della seconda stagione di Afterlife su Netflix, una serie che a me piace molto e che piace molto al nostro amico Diego Castelli. Abbiamo parlato di serie che parlano di morte. E no, sono fatte quelle che fanno i gesti apotropaici, serie anche quasi tutte molto divertenti, piene di riflessioni, ma anche con la possibilità di ridere molto. Abbiamo incontrato Edoardo Bennato, che con Eugenio, suo fratello, ha fatto un pezzo molto bello con una ottima intenzione, che è quella di devolvere tutti i proventi agli ospedali di Napoli. E poi il teatro con Giovanni Storti di Aldo Giovanni e Giacomo, il teatro in streaming. E adesso parleremo molto di tante cose che avvengono, che sono avvenute, chissà se continueranno a avvenire in streaming e online nella seconda ora di RadioTube, che è quella di Social Network, appunto quella con l'attualità della rete e dalla rete. 349-238-6666 il numero per i vostri SMS e WhatsApp. Invece, se volete raggiungere me sui miei social, chiocciola Marta Cagnola su Twitter e su Instagram. Come sempre un co-conduttore d'eccezione, mentre mi sistemo sulla sedia perché stavo per cadere, avreste sentito un tonfo e non sarebbe stato molto carino. Un co-conduttore d'eccezione, molto contenta di avere un altro dei più cari amici di RadioTube, Michele Boroni. Ciao Michele. Ciao Marta, ciao a tutti gli ascoltatori. Come se fossi qui vicino a me, come se fossi qui vicino a me. La tecnologia è un prodigio, è un prodigio. Michele, che in tanti conoscono in rete come MB. Da quanto tempo sei MB, Michele? Prima blog, allora, poi... Dal 2002. Dall'agosto 2002. Hai detto niente. Diventi maggiorenne ad agosto. Infatti. MB diventa maggiorenne ad agosto. Esperto di cultura digitale, di marketing, ma anche di musica. E quindi in questa puntata ti sfruculerò su tanti temi. Intanto vorrei far vedere un video alla radio di un'immagine che in tanti, forse tutti hanno visto oggi nei telegiornali, sui giornali online, ma la facciamo sentire anche alla radio, facciamo sentire l'immagine alla radio. L'omaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al monumento al Milite Ignoto per il 25 aprile. In questo periodo, Michele, abbiamo detto tante volte immagini che passeranno alla storia, l'abbiamo detto sì, per il Papa, l'abbiamo detto ancora con Mattarella, con il famoso Giovanni neanch'io vado dal barbiere. Questa immagine sì, del Presidente da solo davanti al monumento e poi mentre se ne va infila la mano nel taschino della giacca per tirare fuori la mascherina e mettersi la mascherina. Sì. Non lo so, è una frase fatta a dire sono immagini che resteranno. Cosa ne pensi? No, guarda, l'ho scritto anch'io appena l'ho vista sui social, perché è la prima cosa che ti viene in mente. Era anche la foto che si è vista, era una costruzione perfetta, sembrava come dire diretta dal direttore della fotografia di Sorrentino. Era come dire surreale da un certo punto di vista, ma vivendo noi in questi momenti surreali era toccante e commovente, assolutamente. Tra l'altro E Mattarella si rivela per tutte queste cose, come, come dicevi tu, anche nella gaffe che ovviamente non era stata pilotata, ma è avvenuta, però un grande maestro di comunicazione, una comunicazione garbata ma sempre decisa, sempre al momento giusto. Lui, che solitamente è sempre così austero, si è in qualche modo aperto a una leggerezza che probabilmente gli italiani segretamente desideravano, e quindi insomma il nostro presidente, grazie al cielo che c'è. Sì, è vero. Michele, tra l'altro abbiamo sentito nel giornale radio delle 16 anche, non so, in quello delle 17 perché ero andata a stampare la scaletta della seconda ora di RadioTube, confesso non l'ho sentito, l'audio delle frecce tricolori che sono passate su Roma. Anche qui un'immagine potentissima che adesso sta facendo il giro, che brutta espressione l'ho detta, vabbè ormai l'ho detta, sta facendo il giro dei giornali online, dei social, un'altra immagine potentissima. Sì, assolutamente. Quello sempre, devo dire che le frecce tricolori nel mondo, io insomma ho un po' di amici anche stranieri, ogni volta che li faccio vedere le frecce tricolori rimangono sempre senza fiato, pensano che siano una creazione fatta in post-produzione, non credono mai, una trovata in qualche modo da Cinecittà, perché gli altri non ce l'hanno, ecco. Oggi ancora di più, che siamo anche un po', come dire, in questa situazione, queste frecce tricolore ci danno ancora di più quella forza e quella voglia di speranza che tutti noi... Un po' di retorica, vabbè, però... Però è un po' inevitabile, poi te lo chiederò anche te lo chiedo subito, nella pubblicità, sì. Visto che sei esperto di marketing, inevitabilmente esperto di pubblicità, perché te ne occupi da molti anni... la retorica è sempre dietro l'angolo, però il tricolore, stare uniti, l'unità, la forza per riprendere, stanno segnando moltissimo anche le nuove pubblicità che stanno uscendo. È un po' lo stilema che inevitabilmente ci troviamo ad abbracciare. Guarda, sì, la pubblicità in questo mese e mezzo, due mesi, è stata sempre meno l'anima del commercio, come si suol dire, è sempre più un barometro, un indicatore della temperatura sociale. Abbiamo vissuto varie fasi, no? Cioè, è stata la prima fase anche un po' distopica, no? Perché erano i primi giorni di lockdown, però... Erano i primi giorni di lockdown e il gorilla si abbracciava ancora quando faceva l'aperitivo. Sì, infatti, abbracci, aperitivi, locali, grandi cose. Quindi c'è stata una prima fase di sorpresa che ha colto ovviamente tutti di sorpresa. E poi c'è stato un secondo stadio, diciamo, di presa di coscienza e di condivisione, quindi l'inni vari all'italianità, fatto da varie aziende, insomma l'abbiamo visto tutti, e anche la logica del io resto a casa, no? Con anche alcune aziende di telecomunicazione che hanno ripreso quella estetica di Zoom e delle varie video chat. Sì, un po' per necessità, perché così lo spettatore si riconosceva subito. Assolutamente. C'era un bisogno di rappresentanza e di riconoscenza. Ora invece siamo nella terza fase in cui diciamo i messaggi sono sempre quelli di ripartire, rinascere. Queste sono un po' le parole chiave, quindi si chiama Sofia Loren per incarnare lo spirito italiano. E quindi insomma questo è un po' il momento che stiamo vivendo. La fase 2, che in questo caso sarà la fase 4 della pubblicità, sarà tutta da vedere. Sì, sia da un punto di vista, diciamo, dei valori da trasmettere, no? E quindi le piccole conquiste, il vedere un po' di speranza nel futuro, sia anche da un punto di vista produttivo. Perché ovviamente questi spot che abbiamo citato erano spot in cui non c'era un girato vero e proprio, ma c'erano immagini o appunto quelli che vengono chiamati gli home shooting, quindi girati a casa del regista, oppure attraverso dei filmati delle banche date, delle library o immagini di repertorio. Mentre le le prossime, insomma quelle che ci saranno, che vedremo probabilmente nella seconda metà di maggio, a giugno, eccetera, saranno invece delle... Cioè le prime che potranno essere girate davvero. Sì. Sì, forse. Quelle saranno sempre con una logica di social, come si dice, social distancing, no? E quindi si vedranno, non si vedranno più di due o tre persone all'interno di un'inquadratura, saranno inevitabilmente a chilometro zero, o quantomeno insomma, all'interno della regione, non ci saranno quelle pubblicità, io sto parlando dell'Italia ovviamente, però anche le pubblicità, quelle di quei brand globali e internazionali, sarà sempre difficile per i pubblicitari trovare il momento giusto di raccontare una determinata situazione, anche perché noi sappiamo, no, che l'Italia si trova in una situazione tra virgolette in anticipo rispetto non so, agli Stati Uniti o anche al Regno Unito, e quindi insomma adesso negli Stati Uniti stanno vivendo come dire, tutta quell'estetica dei balconi che noi abbiamo vissuto quasi un mese fa. E quindi insomma sarà difficile. Sì, sui social c'è quell'effetto insieme. Per noi giorno della marmotta, vediamo delle cose che noi abbiamo già vissuto prima e le leggiamo e diciamo sì. Beh, ok, si sta ripetendo tutto uguale altrove nel mondo. Michele, ti chiedo una cortesia, facciamo una brevissima pausa, viabilità, poi voglio tornare ancora a chiederti una cosa sulla pubblicità, perché anche la pubblicità viaggia sulla rete, parla moltissimo di noi, tra pochissimo. Viabilità e poi saremo ancora insieme. Promo 24. Smart working, un'espressione che abbiamo ormai imparato a conoscere. Significa poter lavorare da casa o da qualunque posto, ma bisogna essere attrezzati con la tecnologia adatta. Conosci Claudia di Enfon? Claudia è il centralino in cloud che ti permette di portare il tuo numero fisso aziendale sempre con te. Non solo, puoi fare e ricevere chiamate su ogni device, anche smartphone e computer, esattamente come se fossi in ufficio. Provalo subito. Se diventi cliente entro il 30 aprile, hai Claudia gratis per 2 mesi e puoi disdire quando vuoi, senza penali. Vai su enfon.com/promo per scoprire tutti i dettagli del servizio e dell'offerta. Richiedi l'attivazione. Il servizio sarà attivo in 24 ore. www.enfon.com/promo. Radio Tube Social Network. Eccoci ancora insieme con Michele Boroni, co-conduttore specialissimo di questa. Io adoro avere in diretta Michele Boroni, esperto di comunicazione, marketing, pubblicità, musica. Allora adesso gli chiedo milioni di cose, perché le informazioni, lo dicevamo anche prima con Edoardo Bennato, noi da un mese e mezzo vediamo la realtà attraverso la finestra di casa e la finestra della rete, quindi ci sono queste due finestre che ci fanno vedere delle porzioni di mondo. Stiamo parlando di pubblicità perché la pubblicità sta seguendo un po' i nostri stati d'animo, anche la pubblicità ha vissuto varie fasi. Io vorrei citare, Michele, due bravissimi esperti di comunicazione tra sociologia e pubblicità, che sono Giovanni Bocciartieri e Paolo Iabichino, che sono i creatori di questa diretta Instagram che si chiama Carosello is Back. Ne abbiamo parlato, abbiamo avuto ospite Paolo Iabichino qualche settimana fa, che fanno proprio questi ragionamenti sulla pubblicità e sulla comunicazione tutte le sere alle 19.45 in diretta Instagram. Giovanni Bocciartieri si è inventato un'espressione che a me ha fatto molto sorridere, ma l'ho trovata molto reale, advert shame, cioè un po' di pudore, di vergogna nel fare la pubblicità, cioè quasi volersi scusare nel fare una cosa legittima che fa parte della vita di tutti i giorni come la pubblicità, e quindi comunicativamente dire non avremmo voluto fare, oppure ammantarla di altri tipi di valori. È un momento difficile, è un momento difficile, sì. Michele. Sì, credo che sia soprattutto questa una mentalità un po' italiana, che è anche un po' figlia di, guarda caso, Carosello, no? Ben separate la parte, diciamo, di scenetta, e quindi la scenetta dall'annuncio del prodotto. Quindi la pubblicità è sempre stata vista non come comunque anche una forma in qualche modo anche di intrattenimento, talvolta anche artistica, ma sempre sempre qualcosa che non facciamo pubblicità, no? C'è sempre un po' questo modo di dire. Quindi l'advershame esiste assolutamente e credo sia abbastanza una cosa italiana. Poi sai, in questo periodo è veramente difficile, insomma, io sono il primo a, come dire, criticare una certa enfasi, pubblicità che sono alla fine tutte uguali, che dicono grazie, che sì, dicono è vero, il problema insieme. È che poi tu le vedi e non ti ricordi più che cosa pubblicizzano, perché l'estetica è la stessa, la bandiera, il cielo, la città, sì. Sono le stesse, perché sono le stesse immagini prese proprio dalle banche dati, non esiste un girato che rappresenta la marca. Poi proprio per questo non vogliono mettere il prodotto, perché hanno paura di, come dire, confondere i due messaggi, e quindi alla fine non ti ricordi mai che messaggio hai visto, di che marca. Chiudo sulla pubblicità, sai che una domanda che io mi sono fatta all'inizio, i nostri due di Carosello e Sbecca hanno riso, però la mia era una domanda seria. Cioè, come faremo con le pubblicità dei gelati? La pubblicità del gelato era quella che dava l'inizio dell'estate. E adesso la pubblicità del gelato non sarà facile. No, sarà difficilissima. Tra l'altro credo che un comune amico questa mattina ha postato la pubblicità di un gelato in Russia negli anni Ottanta, dove le due persone erano una sorta di... simil cuore di panna, però con i due fidanzatini molto distanziati, ecco. E lui diceva, ecco, questo probabilmente sarà il format. Chi è il comune amico, così vado a vederlo. Si chiama Daniele Cassandro ed è un bravissimo giornalista internazionale. Daniele Cassandro, e vado a vedere la pubblicità col distanziamento sociale per i gelati. Sì. Allora, fase 2, abbiamo citato fase 1, fase 2, fase 3, fase 2 davvero, anche se è ancora un po' complicato capire cosa succederà. Una delle cose che sono state dette, è stato detto uscire per fasce d'età, e c'è stato questo problema del teniamo a casa ancora per un po' i sessantenni, e c'è qualcuno come Fiorello che ha reagito così. E non niente, adesso quindi i sessantenni non possono uscire, io non ce li ho ancora, quindi io in pratica dal 4 maggio al 16 maggio potrei uscire. Siamo a rischio, siamo persone da proteggere, perché siamo un po' come il panda, come il cercopiteco, come il colibrì dell'Himalaya. Quindi, amici sessantenni, lo so che voi pensavate di essere ancora giovani. Non è così. Io mi rivolgo a alcuni amici che conosco, ad esempio Ligabue. Non puoi uscire, manco tu, sappilo. Pensa a Baglioni, Venditti, questi proprio. Vieni, chiusi. Vabbè, io rimarrò a casa. A meno che qualcuno non dica... che no, i sessantenni può succedere, dai, 61, 62, 63, dai, ok? D'altronde, a pensare che Fiorello abbia 60 anni a me sconvolge, un po' perché non li dimostra, un po' perché mi fa capire che era un personaggio della mia adolescenza, e allora che mi fa un po' pensare alla mia età, ma non importa. Questo ci porta però a un altro argomento. Abbiamo citato prima la diretta Instagram di Carosello Is Back. Fiorello è stato un altro dei grandi protagonisti delle dirette Instagram, almeno per qualche settimana, con Jovanotti, che poi ha mollato un po' il format perché doveva realizzare una cosa televisiva. Secondo te, che cosa rimarrà di queste dirette Instagram che a un certo punto sono state il nostro pane quotidiano? Avevamo un palinsesto di dirette Instagram o su YouTube o Facebook, insomma, di dirette in rete parallele alla nostra vita quotidiana, magari avendo meno televisione. La radio c'è sempre. Però questo fenomeno radio c'è sempre. Questo fenomeno delle dirette Instagram, secondo te cosa rimarrà? Allora, io l'ho vissuta con un po' di horror vacui, questa iperpresenza delle celebrity su Instagram, come appunto la classica paura di, da una parte, di perdere l'affetto, il calore del pubblico, insomma, dovevano esserci in qualche modo il terrore di essere dimenticati, e dall'altra anche questa incertezza, come dicevi anche tu, di questa fase 2, soprattutto di quando riaprirà tutto quanto, e quindi quando torneremo staremo a fare concerti, a loro a sfilare nei red carpet, a fare tutto questo. Quindi mi ha ricordato un po' quei passaggi storici, un po' come quel film bellissimo di Billy Wilder, che era Il Viale del Tramonto, no? Delle star del muto che si trovano un po' in difficoltà. Sì, io allora ogni tanto mi metto in posa Gloria Swanson sulla scala, lo faccio io, mi piace molto, sulla scalinata del Sole 24 Ore, mi piace fare la posa Viale del Tramonto, sì, sì. Però c'è anche da dire una cosa, Michele, secondo me un po' queste dirette Instagram hanno fatto vedere la differenza tra artisti, perché ce ne sono alcuni che con niente sono riusciti a tirare fuori delle cose interessanti, cioè Fiorello e Jovanotti. Io potevo guardarli per un'ora. Allora sono due fuori classe. In realtà Fiorello faceva già queste cose prima ancora del lockdown, cioè lui è quello che paradossalmente è quello che ha sperimentato di più in rete da ora da sessantenne, cioè comunque anche già da cinquantenne, quindi di lui e anche di Jovanotti, insomma, sapevo, ma ci sono state in effetti molte cose. Io ecco, ho amato molto quelle chiacchierate a due, no? Con lo schermo del telefonino diviso a metà, insomma, quelle di Instagram, perché senza quel tempo serrato dato dall'orario, dal timing televisivo, eccetera, c'è stato un po' il gusto di chiacchierare, della chiacchierata, magari anche un po' di cazzeggio, evidentemente. Però sono venuti fuori anche dei lati umani delle persone, senza poi parlare della cosa che a me interessava di più, che erano gli sfondi. Ah, gli sfondi, certo, delle case. Fammi salutare anche Giorgia Olivieri, che ha fatto su Vanity Fair il galateo degli sfondi, perché io ho sempre fatto le videoconferenze, le dirette, le cose nel mio studio, quindi io ho la libreria alle spalle, ma non era voluta. È che lì ho la mia scrivania e ho la libreria alle spalle, e tutti dicono: ah, la libreria, vuoi fare quella colta con la libreria alle spalle? No, è che è lì la mia postazione. Però effettivamente anche io guardavo le case proprio. Ma guardavo, perché adesso ce ne sono un po' meno, abbiamo tutti un po' allentato sulle dirette Instagram. Personaggi che sono venuti fuori, allora, secondo me alcuni musicisti che hanno fatto capire di essere bravissimi, anche lì non è che ci stupisca, però uno come Francesco Gabbani, che canta, che suona davvero, se ci sono quelli che hanno fatto capire, o Marco Masin, per citare alcuni italiani che hanno fatto degli home concert veri, perché sono bravi davvero. Un personaggio che è venuto fuori, che io sapevo che era simpatico, però è venuto fuori molto molto bene, vi faccio sentire un pezzettino di Bobo Vieri, qui era con Marco Materazzi. Mi sono pisciato dalle risate. Eravamo sabato mattina, tutti lì intorno, Lippi c'è la formazione, e poi dice: facciamo riscaldamento e una partitina. E poi ti arriva, sai che c'ha la voce grossa, fa: mister! E il mister dice: dimmi, ti arrivo. Dio mi ha detto che io devo giocare. Quando ha detto così, io ero già a terra, sdraiato, credevo. E il mister gli ha detto: cazzo, strano, a me non mi ha detto niente. Bella questa. Beh, Bobo Vieri, personaggio che è venuto fuori nella sua, in queste dirette Instagram, non male. Sì, sì, pensavo proprio, tra l'altro, a lui, proprio quando dicevo del gusto della conversazione un po' da bar, ma che poi alla fine fa raccontare storie che magari in un'intervista canonica i calciatori, in questo caso, insomma, comunque i protagonisti non avrebbero mai raccontato. Insomma, sembrava veramente di entrare un po' dentro un'intimità e una appunto l'intimità di queste celebrities. Secondo me ha fatto molto bene, anche lui è stato nostro ospite il Late Show di Saverio Raimondo, mentre mi sembra arrivato un po' in ritardo Fabio Volo, che ha lanciato in questo periodo il suo Orchite Show, non mi fa neanche impazzire come titolo, mi è sembrato un po' in ritardo. Sì, è un po' in ritardo, e poi anche lui ha giocato ovviamente su tutto il tema del panettieri, ho visto fare, che fa praticamente lezioni di panettiere, il boom del lievito madre, lezioni di impasto, ecco, lezioni di impasto era la parola. Sì, si è un po' accodato, probabilmente perché lui fa anche il programma radio. Sì, infatti. Sì, si è ritrovato. Sì, è arrivato forse un filo dopo rispetto agli altri. Sì, però c'è anche da dire, perché insomma, ricordiamoci sempre che questo è causa anche di una grande tragedia, essendo lui di Brescia, ed essendo Brescia una delle città più colpite, immagino che abbia avuto anche persone vicine o amici o genitori di amici che sono stati in qualche modo coinvolti dal coronavirus, e quindi forse non si ha tanta voglia di parlare o quanto di scherzare, soprattutto nei primi tempi. Allora Giuseppe scrive: mi ero sintonizzato ma ho cambiato subito, si è arrabbiato perché dice: credo che non sia il caso di fare trasmissioni sportive in questo periodo e nemmeno far parlare giocatori plurimilionari. Ma non stavamo parlando di sport, stavamo parlando di dirette Instagram, e abbiamo fatto sentire quanti secondi? 29 secondi di Bobo Vieri, mamma mia, più veloce del West, proprio spento su la radio. Vabbè, no, non stavamo facendo una trasmissione sportiva, stavamo chiedendo cosa resterà di queste dirette Instagram. Michele, facciamo una breve pausa perché c'è ancora un altro argomento di cui voglio parlarti, che è la musica, perché in questi giorni è successo qualcosa di molto importante, e poi andiamo a salutare un amico. Non vi dico ancora niente, tra poco. RadioTube Social Network. Allora, sempre con RadioTube, sempre con il nostro co-conduttore d'eccezione Michele Boroni. Michele, ti faccio sentire un pezzettino di questa cosa che è successa poche ore fa, in realtà. Nathan's here with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they give me loose. Yeah, jump out boys, that's Nike boys hopping our coast. Way too big when we pull up, give me the loot. Give me the loot. Allora, lui è Travis Scott. I ragazzi lo conoscono molto bene, se non l'avete mai sentito sappiate che è molto molto popolare. Ma cosa c'è di particolare in questo concerto che ha fatto Travis Scott? Allora, c'è che il concerto di Travis Scott non è andato in esclusiva in qualche sito o in qualche network radiofonico o televisivo, ma all'interno di un videogioco online, cioè il videogioco online più giocato nel mondo, che è Fortnite. E quindi praticamente nella notte tra venerdì e sabato, anzi tra giovedì e venerdì, 12 milioni di giocatori si sono connessi in contemporanea a Fortnite e hanno visto il concerto di Travis Scott. Ovviamente era un avatar, insomma era la figura animata di Travis Scott, però la musica era quella sua, e ha approfittato anche per lanciare il suo nuovo singolo che si chiama The Scots. Secondo te questa cosa è importante perché? Cioè è una cosa buffa, una novità divertente che rimane lì, o è il segno di qualcosa? No. Ma no, ma è il segno di qualcosa che esiste già da tempo e che purtroppo in molti, soprattutto i baroni della cultura e dell'intrattenimento, non riescono ancora a cogliere. Cioè, il mondo dei videogiochi oggi fattura molto molto di più di Hollywood, e il videogioco è un'esperienza straordinaria dal punto di vista di immaginario, da un punto di vista anche di promozione, perché non è la prima volta che una band utilizza il videogioco come mezzo per lanciare un proprio singolo. L'hanno fatto gli Imagine Dragons, l'hanno fatti gli stessi Aerosmith, quindi è assolutamente... Mi viene da ricordare quando un tempo c'era Second Life, forse era, Second Life era un po' troppo presto per le tecnologie, era un po' troppo in anticipo, cioè era una bella idea, ma non c'erano ancora delle tecnologie adeguate, e c'erano degli eventi su Second Life. Sì, era decisamente così. Adesso invece ci sono questi giochi online che grazie appunto alle connessioni, alla fibra, tutti quanti si possono connettere e vivere questo tipo di esperienza. Io trovo una cosa interessante, se penso, insomma, voglio dire, soprattutto in questo momento in cui i concerti dal vivo, ahimè, dovremo un po' aspettare prima di rivedere. Insomma, c'è anche una querela in questo momento tra concerti annullati, rimborsi e tutto quanto. Intanto i ragazzini sono felici perché vedono Trevor Scott nella loro cameretta in una dimensione che è tutta loro. E forse dobbiamo scoprirle queste cose, perché altrimenti rimaniamo chiusi fuori dalla cameretta, dal punto di vista non fisico ma metaforico, e che è anche peggio. Allora, dobbiamo salutare un amico e dare il bentornato a un amico. Io faccio un salto indietro di 3 settimane. Il 4 aprile era stato nostro ospite. Io lo vorrei introdurre così: sto meglio, Covid, vaffanculo. Allora lo introduco con un vaffanculo, ma già all'epoca diceva vaffanculo al Covid, ma 3 settimane dopo è tornato a casa Carlo Gaeta. Bentornato Carlo! Ciao Marta, ciao a tutti. Cioè, sei stato dimesso. Mi hanno buttato fuori in realtà, mi hanno letteralmente cacciato perché non ne potevano più, addirittura è entrata una dottoressa, che voglio citare, la dottoressa Rema, ha detto: Gaeta, ma lei cosa sta facendo qua? Si è fatto l'ufficio, parla al telefono, scrive, sì, perché... scrive, fai video, fai collegamenti con la radio, cosa vuole che gli facciamo lo studio qua? Quindi prenda la porta d'uscita e vada via. Ecco, insomma, questo è stato il gran finale, però ho detto almeno il video finale lo dobbiamo fare. No, io però dentro quel video non entro, va bene, ok. Però hai fatto un bel video con tutte le persone che ti sono state vicino. In quanti giorni di degenza, Carlo? Beh, io ho iniziato il 13 di marzo, quindi stiamo parlando di 37 giorni. Carlo, hai raccontato tutta la storia sui social network, in particolare su Facebook. Adesso, riguardando questa esperienza, che cosa ti ha dato il poterla raccontare, condividere con chi ti conosceva, ma anche con chi ha cominciato a seguirti dopo? Perché era un punto di vista assolutamente unico, cioè tu stavi aprendo la porta a un qualcosa che non era più nei titoli dei giornali, nei titoli dei giornali radio, dei telegiornali, ma era vita vera. Ma sai, Marta, come ho già detto più volte, è stato fare quello che penso di saper fare. Non avevo presunzioni e non avevo, come dire, neanche l'idea di scatenare tutto quello che poi si è scatenato. Mi sono reso conto progressivamente che questa cosa ha funzionato per me, perché mi ha permesso di essere collegato col mondo ed è stato il bello, diciamo, di tutta questa vicenda. Ma ho ricevuto tanto, e quindi questa è la prova che i social, se usati bene, se usati con il cuore e con i sentimenti, ti ridanno cuore e ti ridanno sentimenti. Io questo porto a casa, mi sono arricchito molto in questa esperienza, ma non perché ho portato a casa la pellaccia. Questo non è un dettaglio. Non è un dettaglio, però diciamo è la cosa tra virgolette scontata, cioè nel senso che uno è contento perché ha portato a casa la pellaccia. Io sono stracontento e felice invece di aver trovato tanta umanità, e io ho ricevuto messaggi bellissimi che sto raccogliendo e che mi hanno dato il senso che tutto quello che è successo a me, che stava succedendo ad altri, tutta questa tristezza che abbiamo intorno, in qualche modo poteva essere superata con dei messaggi positivi anche nel momento più brutto che sta attraversando una persona, quindi che è lì, insomma, in prognosi riservata, non si sa neanche come va a finire, hai un punto di domanda sulla testa. Io questo ho cercato di portar fuori, mi è servito e penso che è servito anche a quelli che mi hanno seguito, ecco, tutto lì, senza nessuna presunzione, per carità. Michele, non male, perché la sentir raccontare le cose, anche qui non voglio usare retorica, Però quando una persona giorno per giorno te la racconta su Facebook, diventa vera. Assolutamente, sì. Questo è il lato buono del cioè un lato buono, il lato interessante realmente dei social network, insomma il senso della condivisione e delle esperienze in qualche modo condivise, soprattutto se sono questo tipo di esperienze, arricchiscono chi le legge e chi poi ha modo anche di interloquire, assolutamente. Io se posso aggiungo una cosa, che è successo tutto in un momento in cui noi siamo più isolati, ci sentiamo più soli, e questo sicuramente, questo racconto vero, perché è vero, insomma mi accadeva nella quotidianità, ha permesso alla gente che stava fuori di capire che cosa succedeva dentro un ospedale, anche con l'ironia, perché io non riesco poi tanto a essere serio anche sulle mie cose personali. L'abbiamo sentito, abbiamo messo apposta l'audio con la parolacciona, perché l'autoironia ti ha salvato, no, allora i medici ti hanno salvato la pelle, ma l'autoironia ti ha salvato l'umore in tutti questi giorni. Sì, assolutamente sì, l'asticella dell'umore è sempre stata alta. Io visto che ho citato la dottoressa Rema, devo citare assolutamente il mio amico Paolo Viganò, infettivologo grandissimo, veramente un personaggio unico, che non solo mi ha dato una mano risolutiva, ma non ha fatto un giorno di riposo dal 20 di febbraio, quindi lavorando giorno e notte, e come Paolo ce ne sono tantissimi. E io veramente, quando sono uscito, ero commosso, perché tutti loro mi hanno lasciato il cuore, tanto cuore. No, adesso noi ti continuiamo a seguire sui social, intanto perché fai queste foto in cui respiri felice in giardino e sembra proprio il sapore di un'aria buonissima, perché proprio si vede la soddisfazione. E poi vogliamo sapere dei nipotini, perché quando ci siamo collegati con te 3 settimane fa eri diventato nonno. Stanno crescendo? Stanno crescendo, sono bellissimi. Viola e Samuel stanno crescendo bene, e credo che questo lockdown a loro abbia fatto benissimo, perché si stanno stabilizzando ovviamente con le mamme e con la nonna, e così c'è meno confusione intorno, perché sennò ci sarebbe stato l'assalto al nipotino. Baci, abbracci, chi voleva di qua, chi voleva di su. Invece loro stanno belli, tranquilli, serafici, mangiano e dormono, quindi ecco. stanno benissimo. Pare che uno abbia già iniziato a leggere i social per vedere il nonno cosa combina. Che c'è il nonno famoso, è diventato famoso. Cioè, una vita da giornalista, mi diventi una celebrità sui social per questa cosa qua. Guarda Carlo, che la vita è proprio imprevedibile, eh. Ma sì, sai Marta, ripeto, è una cosa non voluta, e non l'ho cercata, quindi mi sono trovato in mezzo, ho detto faccio l'inviato dal fronte, che devo fare? Quindi, tra l'altro mi piace dire una cosa, vista che è successa oggi e che è una cosa di utilità, la Croce Rossa, Comitato di Monza, mi ha invitato a fare uno spot, perché hanno bisogno di un'altra ambulanza e quindi cercano, come dire, un po' di soldini, quindi la Croce Rossa di Monza, che io ovviamente ringrazio, ha bisogno di una mano, ecco, quindi mi hanno invitato a fare questo messaggio oggi, e io l'ho fatto ovviamente sempre alla Carletto, quindi con l'ironia del pesce rosso fuori dalla boccia, ecco, quindi del pesce rosso fuori dalla boccia, perché la sensazione della mancanza d'aria è quella lì, insomma. Accidenti. Allora Carlo, un abbraccio enorme, goditi questa libertà, perché quando noi pensiamo di essere stati prigionieri con la quarantena, relativizziamo tutto. Guardate, per me mi hanno chiesto più volte qual è la cosa che vorresti fare appena esci, e io ho detto respirare. È vero, respirare. Respirare. Mi ho un secondo per dire vai, una cosa vai, a cui tengo. Carlo, te l'ho già detto, tu puoi tutto, vai. No, adesso non esageriamo, non voglio anche perché i tempi radiofonici, avendo fatto radio tanto tempo fa, li conosco. Volevo ringraziare un gruppo di persone che per me sono state fantastiche, e sono l'Associazione dei Cuochi Uniti, assieme ai ragazzi della Curva Pieri dello stadio di Brianteo di Monza, che si sono, e gli alpini, stavo per dimenticare gli alpini, che hanno fatto una cosa stupenda: ogni giorno consegnano 350-400 pasti a mezza Brianza, e stanno facendo un lavoro incredibile, ovviamente aiutati in questo da tutti quelli che poi portano le derrate alimentari e via discorrendo. Un lavoro fantastico che dura ormai da 47-48 giorni. Ecco da dove venivano quei pranzetti che fotografavi. Ecco, no, da dove quelli erano della mensa dell'ospedale di Legnano, che applaudo però, perché io non ho mai mangiato così bene in un ospedale. Bravissimi. Ragazzi, davvero, Carlo, grazie per essere stato con noi. Però guarda, grazie, che noi ti chiamiamo ancora, perché noi ogni tanto ti chiamiamo se ti va. Va bene, così. Io ci sto perché adoro la radio, quindi figurati, cioè, potete usarmi. grazie a Carlo Gaeta, seguitelo sempre su Facebook, perché adesso posta grandi foto di belle respirate all'aria aperta. Grazie Carlo. grazie a voi, grazie a tutti. Allora Michele, un attimo di pazienza, ultima viabilità, e poi ti chiedo un po' di pareri su come si sta muovendo ad esempio la creatività su YouTube, tra poco. Promo 24. IG, broker leader nel trading online, ha il piacere di invitarti all'appuntamento dell'anno in live streaming con uno dei più grandi trader al mondo, Larry Williams. Partecipa online il 9 maggio dalle 10 alle 15. Collegati alla diretta video per scoprire le regole d'oro del trading e come gestire al meglio i rischi e le opportunità sui mercati finanziari. Registrati su IG.com. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fare trading comporta dei rischi. RadioTube Social Network. Eccoci ancora insieme per l'ultimo spicchietto di RadioTube, sempre con il nostro co-conduttore d'eccezione Michele Boroni. Michele, allora, ci Quale sei? Onore. No, mio, tutto mio. Tra l'altro poi è come averti qua vicino. In questo momento sei a Livorno? Sono a Viareggio. A Viareggio. Ah beh, quindi accidenti, lì ci sarà anche tutto il dibattito su come si potrà vivere questa stagione balneare, dopo quella famosa, sì, due settimane fa si parlava di quelle cose in plexiglass che secondo me erano un comunicato stampa, un'operazione di marketing che poi è diventata quasi una verità assoluta, ma chi lo sa, chissà cosa succederà. No, ma sembrava quasi un fake, anzi anche oggi appunto, proprio durante la presentazione della riunione degli esperti diretti da Colau eccetera, hanno detto no, il plexiglass nelle spiagge no, lo dobbiamo assolutamente vietare, perché insomma è una cosa che non ha senso. Devo dire che in Versilia, come ad esempio nella costa adriatica, essendo spiagge molto molto grandi, sicuramente ci sarà meno gente, però probabilmente si riuscirà ancora a distanziare. Il problema sono nelle baiette in Liguria o in certe zone della costiera amalfitana eccetera, ecco, lì sarà un po' più dura riuscire ad avere la distanza sociale balneare. Sì, la distanza sociale balneare è qualcosa di che ancora va tutto inventato. Allora, sì, volevo chiederti qualcosa sulla creatività su YouTube, perché noi spesso l'ultimo blocco di YouTube lo dedichiamo ai video più divertenti, ai video che hanno fatto più visualizzazioni nelle tendenze. C'è un tipo di video, uno stile di video, che si chiamano unboxing. Guardiamo l'ultimo nelle tendenze, eccolo qua. Bene amici, oggi sono veramente contento perché era tanto tempo che non vedevo l'ora di aprire un pacco contenente un telefono. Sì, avete già letto nel titolo cosa c'è qua dentro, il nuovo iPhone SE. Ah, ce l'ho fatta con anche la custodia in versione. Allora, lui è uno dei più grandi youtuber di tecnologia, si chiama Andrea Galeazzi. Questo video in particolare ha già fatto un sacco di visualizzazioni, eccolo qua. Lui ha 936.000 iscritti. Questo video in due giorni ha fatto 317.085 visualizzazioni, la 85esima è la mia in questo momento, e ha qualcosa come 12.848 like. Allora, gli unboxing sono questi video in cui appassionati ed esperti di tecnologia, ma anche di vestiti, non so quali, trucchi. Sì, trucchi, anche beauty. Sì. Sono degli influencer bambini che fanno unboxing di giocattoli, soprattutto negli Stati Uniti. Il vedere quando si apre la confezione di un prodotto nuovo, vederne illustrarne le caratteristiche, li vedo un po' diminuiti in questo periodo, gli unboxing. Sì, sono diminuiti perché escono meno prodotti, fondamentalmente, insomma, come succede per la musica, come succede per i film. Anche appunto Apple è uno dei rarissimi casi di telefonini che sono usciti, insomma di smartphone che sono usciti quando dovevano uscire. Molti hanno ritardato le consegne proprio, e quindi anche il lancio, perché ovviamente il commercio online, che certamente è importante, però insomma deve essere anche supportato dai classici negozi fisici, e quindi ne abbiamo visti un po' meno di unboxing. Però è interessante questa cosa, perché insomma è sicuramente uno youtuber, ma è anche un influencer. Certo. Fondamentalmente, no? Con quasi un milione di iscritti, è pazzesco. Sì, e invece noi quando parliamo di influencer parliamo sempre di questi, un po' dell'influencer lifestyle, no? Questi che vanno, ecco, loro sono veramente in crisi, perché gli influencer funzionavano se potevano andare negli alberghi o comunque nelle boutique, andare in giro eccetera, magari anche gentilmente offerte da qualche brand. Ecco, loro sono proprio finiti. Perché, secondo te questa cosa marca comunque un passaggio? Non lo so, temporaneamente sicuramente questo è sotto gli occhi di tutti. Forse per ritornare a quello stato, diciamo, di edonismo sfrenato che in qualche modo gli influencer erano portatori, insomma ci vorrà un po' di tempo, ritornerà, probabilmente ritorneranno in forme diverse, ci saranno nuove forme di, nessuno lo sa, perché altrimenti saremo dei altrimenti faremo noi influencer prima per fregare gli altri sul tempo e diventare noi, sì, influencer. Qualcosa cambierà sicuramente, però l'unboxing, come vedi, poi tra un po' i prodotti torneranno ad essere disponibili, e quindi sono una nuova forma delle recensioni, no? Quelle che erano le recensioni sulla carta stampata, adesso che il canale principale è YouTube, questi unboxing sono comunque interessanti, specie se poi chi lo fa è anche competente. È competente. Sì. Il fatto che gran parte di questi influencer, degli influencer invece appunto così di lifestyle, di moda, di lusso, si siano beccati un sacco di insulti in questo periodo in realtà, perché se provavano a fare qualche foto più glamour, legnate a palate, ecco. Sì, questa è anche un po' quella, chiamiamola, invidia sociale, che è abbastanza forte nel web, soprattutto qua in Italia, quindi a maggior ragione in questo momento in cui c'è una oggettiva difficoltà, quando c'è qualcuno che magari o mostra la casa o mostra un certo agio nei consumi o nel modo di vivere, ecco che arriva tutta la le offese, l'ira, l'odio forte da qualcuno parte di... Qualcuno dice che le visualizzazioni sono state molto alte in questo periodo, inevitabilmente però siano diminuiti i guadagni. Questo non, sinceramente non lo so, però insomma pare che faccia parte del fenomeno. Ti faccio invece sentire un pezzettino di un video di alcuni, di un gruppo di youtuber che a me piacciono molto, che sono i Nirkiop. Io li amo molto e ogni volta lo ripeto, sono bravissimi i Nirkiop. Che cosa non vi mancherà dopo? Ecco. Giorno non mi ricordo, ho dimenticato il sapore del sushi. Però ci sono delle cose che non mi mancano, tipo le coppie. Ragazzi, ho una fame assurda. Anche noi abbiamo fame. Mamma mia, ragazzi, sto morendo di caldo. Anche noi abbiamo caldo. L'altro giorno proprio lì ho pestato una cacca. Anche noi abbiamo pestato una cacca. Io sto uscendo. Ciao, piccolo petauro dello zucchero mio. Che è un petauro? È un piccolissimo animaletto che mi assomiglia, vero amore? È vero, ti somiglia tantissimo. Avete lo stesso musettino, carino, carino. C'hai una pistola? Perché? No, è una cosa mia. Ma per me o per te? Sto decidendo. Sto decidendo. La verità è che anche con pochi mezzi e è stata girata ovviamente, fatta in casa, montata, certo. Ma girata in casa. E anche sotto i video degli youtuber quello che conta è la scrittura. Devo dire che ridevamo io e Roberta in regia guardandoci da una parte all'altra del vetro, perché quella ha pestato una cacca anche noi, è molto carina. Io rido, io su queste cose lo sapete, rido. La scrittura è quello che fa la differenza adesso più di tutto, ecco. Sì, sì, sì, sono molto divertenti. Tra l'altro si sta, come dire, questo tipo di comicità si sta traghettando anche in televisione. Basta vedere i Jackal, che attraverso una serie di format che hanno fatto sia su Sky che su RaiPlay riportano fondamentalmente quello che facevano su YouTube, sul web, eccetera. Anche in televisione, quindi insomma è sicuramente un linguaggio, una grammatica che adesso è diventata veramente popolare su tutti i mezzi. Resisteranno i migliori, secondo me resisteranno i migliori, sì, certo. Anche questo, questa cura d'urto purtroppo della quarantena ha fatto sì che i video che sono usciti, che hanno avuto molte visualizzazioni, erano quelli dei più amati, ma anche i video fatti bene, perché i ragazzini che guardano tanto, i ragazzi, ma non solo i ragazzi che guardano YouTube, non sono mica sprovveduti, hanno un certo spirito critico, perché sono più abituati, certo. Più abituati di noi. Michele, però lasciami dire una cosa, io aspetto quelli bravi, nel senso, cioè, noi stiamo vivendo un momento veramente particolare e io aspetto i veri sceneggiatori, quelli, certo. come un tempo erano gli Agi, gli Scarpelli, Sudo Cecchi d'Amico, Monicelli, Risi, ecco, io mi aspetto, perché è voglio dire, sono bravi questi ragazzi, che ovviamente sono bravi perché sfruttano anche l'instant, no? Cioè riescono a sfruttare il fenomeno del momento e a riderci. Però qua c'è tanta di quelle di quelle cose divertenti e amare, i vizi degli italiani, eccetera. Sì, c'è tutto un materiale che secondo me sto aspettando, nel senso che poi ovviamente lo vedremo tra un anno, aspettiamo due, al varco, aspettiamo al varco. Grazie Michele Boroni per essere stato con noi. Grazie Michele. Grazie a te, Marta. Devo ringraziare velocemente Alessandro Schirano, Edoardo Lavezzari in redazione, Roberta Frisani in regia. Noi ci ritroviamo la prossima settimana. Ciao.